Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera, io non ne posso più di sentire questi fascistelli del cazzo di merda, dare degli assassini ai partigiani, eh? Quando hanno cominciato loro a rompere i coglioni, andare in giro con i manganelli, a dare l'olio di pulga, allora dopo, quando l'ho preso nel culo, quando ho visto che la gente stava più dentro qua a piangere, dopo piangevano, vogliono riscrivere la storia, quello là era scappato, voleva scappare in un camion travestito da soldato, ha fatto l'ubriaco, il grande mascella, l'hanno trovato e giustamente è stato giustiziato su ordine del CLN. Io a Pertini gli ho dato la mano perché è un eroe e ci hanno liberato. Sono delle mezze seghe i fascisti, perché attaccano in gruppo, quando prendono il calcio in bocca si cagano addosso, hai capito? Andavano a dare l'olio di ricino nei manganelli, sto cazzo, dopo quando la gente ha cominciato a prendere, a rivellarsi, dopo si cagano addosso, dopo parlano di umanità. Ma chi è che ha cominciato? Chi cazzo ha cominciato? Chi è che ha cominciato? Si chiude Punta Cana. Chi cazzo è quello lì? Avete perso. Grande l'Armata Rossa, grandi partigiani e grandi gli inglesi che hanno resistito. Questa è gente che deve essere bruciata viva, sì, bruciata viva, bruciata viva. Beh, una passata di dittatura non è che farebbe male, eh. Caro David, dopo la solita compilation, la solita compilation. Dobbiamo ringraziare come al solito il signor La Corte e quell'altro criminale che dovrebbe essere, che è il signor Cruciani, che da 6 anni, 10 anni tiene in mano il timone, sequestra questa fascia oraria dalle 18.30 alle 21. Ma no, che la sequestri. Io voglio chiedere la liberazione di questa fascia oraria. Perché il sequestro del cervello, il sequestro del hai sequestrato le coscienze, riducendo questo paese nella situazione nella quale siamo, perché no, queste copertine dimostrano perfettamente questa immagine devastante che dai del paese, devastante. Comunque. Allora, ti voglio segnalare che la signora Mussolini, già ospite di questo programma qualche giorno fa, a proposito sempre della questione di cui si parla in questi giorni, è incredibile come l'Italia precipita improvvisamente in una discussione sul fascismo. Guarda che è incredibile, infatti, è incredibile che noi ovviamente abbiamo anticipato. Abbiamo anticipato già da questo merito, hai anticipato conversazioni sulla masturbazione, hai anticipato conversazioni sui vibratori, hai anticipato. Mai una volta che anticipi una conversazione sul debito pubblico. No, tu anticipi sui vegani. Hai anticipato conversazioni, capito, sugli scambi di coppie, ora ne parlano tutti, anche il Corriere della Sera, vedo che questo fa delle chieste, è una cosa incredibile, andiamo avanti. Allora, signora Mussolini, ti dicevo, proprio sulla Boldrini, dice, si imbarchi, poi noi non ce l'abbiamo con la Boldrini, però amici miei, ci viene servito su un piatto d'argento, si imbarchi su una nave di una ONG e se ne vada alla deriva. Ma chi? La Mussolini alla Boldrini. La Boldrini è un ignorante, si imbarchi su una nave di una ONG e se ne vada alla deriva. Pazzesco. Altra cosa su cui riflettere sono gli incendi a Napoli. Incendi a Napoli. Questa adesso è una piaga, terribile, vabbè, che meriterebbe una riflessione, meriterebbe, come dice. Sì, però Vittorio Feltri, come al solito, sempre sul quotidiano Libero, naturalmente, la riduce in questo modo: a Napoli si bruciano da soli. Come a Napoli si bruciano da soli. Altro che incolpare lo Stato assente, su questo c'ha ragione. Piromani inceneriscono oltre 100 ettari di bosco per boicottare il nuovo parco nazionale del Vesuvio e salvare migliaia di case abusive da abbattere. Sì, ma la cosa divertente è un'altra. Scrive il signor Feltri: altro che incolpare lo Stato assente, i napoletani si bruciano da soli. La gente del mezzogiorno è più portata a collaborare con i delinquenti. La gente del mezzogiorno, ripeto, è più portata a collaborare con i delinquenti. Mi sembra un po' forte. Temuti e venerati, che non con le forze dell'ordine poco rispettate. Sì, però non ha tutti i torti. Non ha tutti i torti. Ci sono anche delle ragioni storiche. Ci sono anche delle ragioni storiche che non staremo qui, come dire, ad approfondire. La gente del Mezzogiorno è più portata a collaborare con i delinquenti che con lo Stato. Non mi sembra una cosa così da pazzi. Mi sembra la realtà. Sostanzialmente mi sembra la realtà. Infatti i meridionali che vivono a Milano sono diventati più milanesi dei milanesi, si sono perfettamente inseriti e sono i primi a comportarsi osservando le regole. Parecchi di quelli rimasti in Terronia, invece, influenzati dalla comunità storta in cui campano, ne adottano le cattive abitudini e sono guai. I peggiori di essi sono addirittura piromani e danneggiano i compaesani. Roba incredibile. E a proposito dei napoletani, si guardino allo specchio e sputino, non sbagliano bersaglio. No, una cosa pazzesca. È terribile. I napoletani, non tutti per carità, si sono bruciati da sé. Si guardino allo specchio e sputino, non sbagliano bersaglio. Adesso che fa De Magistris? Querela Feltri per l'attacco a Napoli? Tanto me frega niente, mi paga il giornale. Me frega niente, proprio mio. Ah, come? Scusi. Scusi, Feltri, se me poi... Me frega niente. Io quando chiudo ho fatto il titolo di apertura, affanculo tutti, alle ore 9 vado al ristorante, vado, o mi fai parlare, o tutte le volte mi inviti per parlare delle tue minchiate, di cui a me non me ne frega niente perché neanche mi paghi. Io faccio il titolo alle 20:30, metto affanculo tutti, e alle 21:05 sono già in via Senato a mangiare al Baglione. Ma me ne frega niente di voi, niente. C'è un'altra frase di Feltri dell'altro giorno quando è stato ospite da voi. Si può isolare il non me ne frega niente? Si può isolarlo bene? C'è un'altra frase che non abbiamo mandato in onda ieri. Se arriva qualche nero in casa mia a lavorare per poche lire, sono contento. Ma perché per poche lire? È terribile, cioè, non si possono dire queste cose, dai. Sì, ma ha ragione. Ha ragione, in fondo gli italiani, me lo diceva l'altro giorno pure il signor Grasso. Conosci il signor Grasso? Aldo Grasso? No, Aldo Grasso. Giorgio Grasso. È certo. Dice, gli italiani sono dei coglioni, perché dovrebbero essere, sì, questa è la sua tesi, lo devo invitare, sì, un giorno, dovrebbero essere a favore dell'immigrazione. Del professor Grasso. Sì, sì, assolutamente. Grasso. Guarda, è un grandissimo intellettuale, Grasso. Qual è la tesi di Giorgio Grasso? La sua tesi è questa: gli italiani che dicono di no all'immigrazione sono degli imbecilli. Dovrebbero dire di sì, certo, perché certo, arrivano i negri e vengono pagati di meno. Lui dice così: arrivano negri immigrati che costano meno rispetto agli italiani, costano meno perché lavorano in nero, si fanno pagare. Ma a lui piace questo. Ma sì, no, ma signor Grasso dice: gli italiani che non vogliono gli immigrati sono degli imbecilli, perché in realtà vengono da noi, vengono pagati, sottopagati, eccetera eccetera, e fanno tutto quello che noi non vogliamo fare. Comunque, Feltri, io fra l'altro, se arriva anche qualche nero che viene a lavorare in casa mia per poche lire, sono anche contento. Poi, cioè, non è il problema mio personale, il problema riguarda il popolo. E il popolo ne ha piene le balle, lo volete capire o no? Dobbiamo mandare la pubblicità. Sì, no, abbiamo capito, mi sembra chiaro. Proprio per questo, io soli non sento più niente, non capisco più niente. E non sento niente perché c'è un problema sul collegamento. Grazie a Vittorio Feltri. Allora, altra notizia di oggi. A me piacciono anche i fuori onda di Feltri, quando è lì che sbuffa, che non so di essere in quale, dice: ma dicono una quantità di stronzate che non me ne frega niente. Si sente ogni tanto sotto che dice: ma dicono una quantità di stronzate. Allora, l'altra notizia di oggi, caro De Vito, tu sarai contento, sicuramente non dico che stappi lo champagne, eccetera, sì, ma è la notizia che il famoso bagnino di Chioggia è indagato. Ah, non l'ho visto. Mamma mia, amico mio, stasera si festeggia a salmone e caviale. Mamma sei mia, sei veramente amico, un coglione. Lo sai. Una delle notizie, quel signor, sì, bellissimo, pubblico ludibrio, foto, nome, cognome, chiuso lo stabilimento, quello indagato. Finalmente c'è lo Stato, grazie Stato, finalmente c'è lo Stato. Bene, ma è sei una veramente un pazzo. Giubilo. Quello è un lavoratore. È un giubilo, è per un me. Lavoratore. È un lavoratore, quello di è un 64, cretino, ma non di è un 64 lavoro. Anni ma che c'entra, che, ma che c'entra? Che semplicemente poteva lavorare senza mettere dai, gli stemmi del duce, senza fare quei comizietti patetici da persone da fascista su Marte, grottesco, manco Guzzanti. Comunque, quando Guzzanti faceva fascisti su Marte. Ma dai, sembrava, è un eroe quello là, è un eroe, sembrava, è un eroe ottimo Guzzanti. Ed è una specie di Rosa Parks, secondo me. Una specie di Rosa Parks. Ma tu sei impazzito? Sì, assolutamente. Attraverso sul corpo spieghiamo, di questo signore. Quegli imbecilli che è un eroe, che è un eroe dell'anti-apartheid americano. Sì, spieghiamo, diciamo, perché anti-apartheid, diciamo, insomma, della donato da Varese se non hai idea dello schiavismo, dello schiavismo, diciamo, della lotta allo schiavismo in America. Chi è che mi chiama adesso? Scusami, caro preso, sono in diretta alla radio. Perché mi chiami, vecchio mio? Grazie. Ecco, chiudi. Ciao. Allora, Scarpa ha detto da noi che Mussolini ha fatto le cose buone che ci sono in Italia. Mussolini ha fatto le cose buone che ci sono in Italia. Ma che cosa ha fatto di buono Mussolini, secondo te? Niente. Allora, guarda, che cosa ha fatto di buono? A me viene da ridere, perché ha fatto le cose buone che ci sono in Italia. La pomicica, le pensioni, l'INPS, gli asili. Le ha fatte tutta lui, no? Poi ha detto anche che Mussolini è un dittatore. E invece quelli di adesso? Era un dittatore, però era un dittatore pazzesco, dai, su. E adesso i figli che abbiamo, secondo te, sono meno dittatori di lui, dai. Sono peggio di Mussolini, secondo te? Ma no, io non dico questo, me ne frego. Oh, a proposito di Napoli, David, comunque è assurdo essere contenti perché questo signore viene indagato. Dai, è veramente ottimo. Un attentato alla libertà, alla libertà di pensiero. È un attentato, alla libertà. Tra l'altro, scusami, solamente perché si è mossa Repubblica, perché si è mossa l'opinione pubblica, questo qua le stesse cose le aveva fisse. Si doveva muovere la procura, dai, di Chioggia o di non so dove, di Venezia, evidentemente. Che dormivano prima perché se ne fottevano, perché giustamente se ne fottevano di fronte a queste goliardate. Si è messa in moto l'opinione pubblica. Vabbè, a questo serve in un paese libero l'opinione pubblica, so che ti fa tanto male, a questo figurati. Il fascismo fece il Minkul Pop, il Ministero della Cultura Popolare. Qui esiste un'opinione pubblica libera, ha sollevato il caso, la magistratura è intervenuto. Ciao Bagnino, ciao Bagnino. Che viva il Bagnino. Un attimo solo, ma che non metta stelle. Fermo là. A proposito di Napoli, il fatto che Renzi, insomma, sia quasi impazzito, lo dimostra, sia quasi impazzito, cioè non lo so, dice delle cose sconnesse, in questo caso ha detto delle cose sconnesse. Le Olimpiadi a Napoli, ancora con questa storia, le Olimpiadi a Napoli, me l'ero persa l'altro giorno, ce lo sapevo, ma non le Olimpiadi a Napoli. Napoli ha tutte le condizioni per avere un progetto pluriennale davanti. Il progetto delle Olimpiadi, che si sono realizzate nel 92, ha costituito per Barcellona una svolta strepitosa, e Barcellona è oggi uno dei punti di riferimento più forti nella vita giovanile, culturale, sociale dell'Europa. Ecco, secondo me questa è un'ipotesi che ci può essere, visto che, diciamoci la verità, a Roma ci hanno fatto fare una figuraccia. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top! Ma va su! La Zanzara. Parenzo, sei una goccia del merda, tu vatti a rumare, camina! David, scusami, com'è che si chiamava quel negozio a Via Cilea dove compravi le brocche di vetro? Grazie. A questo gioco al massacro io non ci sto. Naturalmente. Parenzo! Senza controllo sanitario. Allora, ti faccio ascoltare, David, Di Battista scatenato. Di Battista, è quello che c'ha il padre fascista. Five stars. Lui è ovviamente uno dei leader dei 5 Stelle. Tra l'altro, sta per nascere sta per avere un figlio, da quello che leggo, diciamo, dalle cronache. Contro la Boldrini, senti? Contro la Boldrini. Un figlio contro la Boldrini? No, no, questo no. Ah, no, questo non capisco. Contro qualcuno, sicuramente. Salvarvi le vostre coscienze, andare nei vostri territori de sinistra, parlare della presidente Boldrini, della rimozione dei monumenti del ventennio. Ma vi rendete conto che ci sentiamo presi per il culo in questo paese? Onorevole Di Battista, la prego di moderare i termini. La richiamo ad un linguaggio consono, onorevole Di Battista. Lei mi richiama all'ordine, perché ho utilizzato. Parli in italiano senza dire le parolacce, guardi. Va bene uguale. Le banche private, vergognatevi di tutto questo. C'è chi non si. C'è chi si oppone! Non era la Boldrini lì a presiedere la Camera, naturalmente. Non era la Boldrini. No. Ma tu hai detto sta per avere un figlio Di Battista? Sì. Quindi vedi che i 5 Stelle fanno anche l'amore. Beh, io pensavo andassero solo nella rete. Facessero l'amore nella rete. E invece mi pare che fanno, no, due, no? Le primarie. Ma di chi è il figlio? Va deciso in rete. Dice, il concepimento. Il dice, ma ti sono veramente, scusa Beppe mia, ma chi l'ha detto? Votiamo online. Dice, come votiamo online? Che ho fatto l'amore io, mia compagna. No, deve essere nella rete, tutto pubblico. Non si è visto che hai messo il pisellino lì. Deve essere visto. Non è possibile. Va messo online. Di beh, no, adesso, non esageriamo. Guarda, scusami, dice, adesso tutto online. Voglio vedere. Non è siete tutti truffati, non è così. Ma, che ma guardi, veramente ho fatto sbicciare l'amore con la mia compagna. Ma chi l'ha detto? È tutto falso. Il Bilderberg. Dice, ma che Bilderberg? Era mia moglie lì, tranquillo. Sono così loro. Son così. Poi a un certo punto attacca De Benedetti, membro di Rothschild. Questo ti piace. Basta, questo. Ma io non ne posso. No, ma senti, più senti questa cosa. Storia. Di Battista, De Benedetti. Questo sembra veramente Mauro da Mantova in questo caso. Devo dire. Ah, a proposito, dove è finito Mauro da Mantova? Mi insulta in ogni dove. Twitter, Facebook, rimasugli del web. Che mi hanno detto una cosa terribile, mi hanno detto. Che ti hanno detto? Che ti hanno che detto? Vaga, nudo per Mantova, dicendo, sai che mi ha ridotto così, te Benedetti? Vaga nudo, l'hanno arrestato e hanno buttato via la chiave. Vagava nudo dicendo che De Benedetti l'aveva spogliato di tutto e che era stata la mafia, demo, pluto, giudaico, massonico, comunista, e urlando nudo dopo due minuti, chiaramente l'hanno preso e hanno buttato via la chiave. Sostanza, finito male quel ragazzo. Male. Ragazzo. Ma tu che la merda! Tu non conti un cazzo! Ma ne abbiamo anche per l'editoria, no? Estremamente libera in questo paese. De Benedetti oggi, lo sapete che è membro del consiglio di sorveglianza di Rothschild? È per quello che poi i giornali non parlano di queste porcherie che voi fate quotidianamente a favore delle banche d'affari, ma parlano del dibattito del fascismo e dell'antifascismo, che per noi è come parlare di Guelfi e Ghibellini nel 2017. Poi se la piglia pure addirittura. Ma perché ce l'ha col banchiere Rothschild? Ma io non lo so, ho conosciuto un erede della dinastia dei Rothschild, mi ha invitato una volta a cena, era lì col cane. Ah, col cane. Sei amico dei Rothschild. Dunque, frequenti i Rothschild. Frequenti i Rothschild. Comunque ti posso raccontare anche questo, perché una persona che anche tu hai conosciuto, che sta, vabbè, insomma, vabbè, un dai. Signore che anche tu hai conosciuto, mi ha detto che una volta è stato a cena con il barone Rothschild in Svizzera, con dei Rothschild. C'era il cane in questo ristorante, in questa sala riservata, è arrivato il cameriere, ha detto, barone, cosa le porto? Il solito, sì, e per il suo cane, ma guardi, porti quello che ho portato l'altra volta, ha gradito molto, e hanno portato una tagliata di filetto per il cane del barone, meraviglioso, trovo, è un racconto vero, Mamma mia. Poi se la piglia con le feste dell'unità, non so, ancora di Battista, ma dai. Ma non lo so, che cazzo. Vabbè, non capisco, che ce l'ha col barone Rossi. Perché voi, ipocriti, che dovete andare alle feste della defunta unità, salvata con i quattrini tra l'altro dello Stato, e Gramsci si sta rivoltando nella tomba, dovete sbandierare le vostre leggi sul fascismo mentre siete passati dalla lotta al capitalismo finanziario alla lotta a favore del capitalismo finanziario. Qui si è un po' incartato, Vabbè, andiamo, apriamo le cateratte, caro David, vai. Sì. Mi ha scritto, sai che mi ha scritto Flavio Togni del circo, preoccupatissimo. Poi Mario da Frosinone, vai Mario. Chiedo il signor Togni. Mario. Ma io volevo dire una cosa a Parenzo, ma. Dimmi Mario, dimmi. Sulla assurdità del decreto legge che ha fatto Fiano, ma se io sono andato al mare. Non è un decreto legge. Ho visto un ragazzo di colore che aveva una bancarella con i libri e vendeva il Mein Kampf di Adolf Hitler. Nessun male a vendere il Mein Kampf, ce l'ho anch'io e l'ho letto pure. Ma ho non capito, è quello il problema. Assurdo, è una cosa assurda. Ma non è quello, lei non ha capito qual è il problema. Non è che il Mein Kampf non si può comprare, ma lei dice una stupidaggine. Va in qualunque libreria, troverà un'edizione legge, critica del Mein Kampf. Quindi dice stupidaggine. Sulle partite IVA, sulle pensioni, sulle cose. Ha ragione Mario. Ma sembra che se si faccia una ha ragione Mario. Diciamo la verità. Ha ragione Mario. Non c'è nessuna urgenza di fare una follia del genere, dai. Non c'è nessuna urgenza perché di fare. Non si pensano alle partite IVA. Senti, caro Parenzo, qui davanti, hai ragione, Mario, hai ragione tu, grazie. Paolo da Bologna, intanto. Parenzo, qui davanti una bottiglia dove sopra c'è l'effigie di una bottiglia di vino, dove sopra c'è l'effigie di Hitler. Vabbè, bravo, che sarà un vino pessimo. Non lo so. Vino da tavola sangiovese, imbottigliato per Veschini da Perugia, il mitico Veschini. Vabbè, è un pirla. Vino del Camerata, dona giovinezza in alti cuori, prodotto in Italia, e dove c'è l'effigie di Hitler. Ora, tanto non si chiama, i nazisti non si chiamavano camerati. Ma no, vabbè, lascia perdere. Lui è un fascista, come sai. Abbiamo intervistato. A sentire, allora, questo qui c'è l'effigie di Hitler, del signor Hitler. Allora, sai, io dico una cosa. La bottiglia. No, ma d'accordo, ma la metto anche dietro. Non è quello il punto. No, la tengo come reperto, bagno. Come reperto storico. Reperto la mostro alla radio. Che vuol dire? Che vuol dire che la mostro alla radio, la bottiglia con l'effigie di Hitler? Semplicemente come provocazione. Certo, assolutamente. Per dire. Come atto di libertà. Libertà per il bagnino, libertà per il bagnino, non deve essere indagato, va premiato, fa quel bagnino. Apologia di fascismo, ma che apologia, quelle sono puttanate, cambia, dai, le regole, ma fino a oggi è un reato, per Paolo fortuna. Da Bologna, vai Paolo, dai, uno che può andare in giro a elogiare il comunismo che ha ammassato milioni di persone e invece indagano un bagnino, ma dai, ma vi dovete vergognare di questa roba qua, avete indagato voi, avete indagato un bagnino mentre c'è gente che fa l'elogio del comunismo che ha ammazzato milioni di persone, vergognatevi. Paolo da Bologna non ha commesso, ecco, nessun volevo crimine, allacciare anche questo perché Siano ieri l'ho sentito e diceva, siccome lui è di fede ebraica o comunque no, di fede, di religione ebraica, ma io Siano lo rispetto, io lo rispetto, lo combatto, ma lo rispetto, non lo sento. Però, questo, allora, qui, se, non lo sento. Dire, quei due fringuellini di Stalin e Lenin tra gli ebrei entrate bene? No, ma hanno massacrato pure un sacco di ebrei, è questo che mi fa venire il sangue al cervello, e che Davide non capisce. Cioè, Stalin, cioè il comunismo, hanno massacrato milioni di ebrei pure loro, milioni di ebrei, no, centinaia di migliaia di ebrei. No, ma tu non difendi Stalin. Ma perché non mettete al bando la propaganda a favore del comunismo? Ma chi difende Stalin? Nessuno difende Stalin. Soros ha combattuto contro i comunisti. Quello che voglio dire, Paolo, che mi vuoi dire? Sentiamo Paolo. Soros ha combattuto, che viene dall'Ungheria, e ha combattuto il comunismo. Soros ha combattuto il comunismo. Non c'entra niente Soros, Paolo, dimmi. Per dirgli che non è vero che io sto solo dicendo che siccome appunto Fiano è di religione ebraica deve tenere presente cosa anche c'entra che sia di religione ebraica, Stalin, ma cosa dice, signore, ma... nei confronti degli ebrei, perché? Io vivo in una città dove abbiamo via Lenin e via Stalingrado, è tutto normale, anche quella è apologia, perché Stalingrado prende il nome da Stalin. L'altra cosa folle è che questo vuol mettere fuori legge dei posacenere, degli accendini, delle bottiglie di vino, ma se uno si sente fascista non è certo eliminando questi che elimini, no, ma infatti è ridicolo. Lei, Paolo, grazie. Levis da Vicenza, che è Levis, come si chiama questo? Levis? Pronto? Come ti chiami? Pronto, ciao Cruciani, sono Levis. Levis, come fa uno a chiamarsi, no, Levis? Tu sai che sei un paio di jeans, chi sei? Quella volta lì mio papà in quel momento lì, cioè, aveva un paio di jeans addosso quando ha trombato tua madre, ti ha messo incinta tua madre, non ho capito. Vabbè. Esatto. Ascoltami Cruciani, volevo dire una cosa. Signor Levis, incredibile. Come, no, ma sono, sì, curioso, come mai si chiami Levis? Allora, siccome che io il Luna Park giro, ho le giostre praticamente. Sei un giostraio? Bravissimo, bravissimo. Ma allora sei rom, sei di origine rom? No, no, magari è sinti. Sì, no, niente. Super italiano, italianissimo. Vabbè, allora? Sono italianissimo. Volevo dire una cosa a Parenzo. Che noi speravamo sia tutti quelli del Luna Park di Padova che andava a fare il sindaco. Beh, i giostrai volevano Parenzo sindaco. Certo, perché gli amici giostrai sanno benissimo che io sono sempre stato vicino alle loro battaglie e sono, ad esempio, vicino alle battaglie tornare... dei giostrai. Sì, non sempre te frega un cazzo dei giostrai. No, io sono perché vi deve essere ridato il Prato della Valle, cioè Prato della Valle deve, vabbè, tornare a diventare quella grande, fermola, fiera, vabbè, popolare che Padova per anni è stata messa sotto, vabbè, sequestro da un signore. Sfumatelo, che ora... sfumatelo. Cucù, sfumatelo. Non c'è più. Cucù. La Zanzara. Ma è una roba pazzesca. No, guardi, veramente. Io fa sta male, sento dalla voce che sta male. Ti faccio ascoltare una cosa da un documentario di, sì, Rai 3. Da un documentario di Rai 3 che riguarda l'impero romano. Sì. E però, sì, senti. E dunque, perché cade l'impero romano in Occidente? E beh, cade perché a un certo punto non è più capace di gestire l'immigrazione. L'impero romano per secoli, a partire dalla grande epidemia di vaiolo che l'ha svuotato di uomini, ha cominciato a far venire gente. La gente passava attraverso il limes col permesso delle autorità, intere tribù, interi popoli si stanziavano in Italia, in Gallia, a lavorare, a fornire giovanotti per l'esercito, attraverso negoziati precisi col governo imperiale. Poi a un certo punto questo flusso di immigrazione diventa troppo numeroso e la burocrazia che deve gestirlo diventa troppo corrotta e i politici che devono dare i permessi cominciano a non avere più le idee chiare. Finisce che emergenze umanitarie, arrivo di profughi, sfruttamento illegale degli immigrati creano una situazione esplosiva che si traduce poi in rivolte, in guerre, in devastazioni, in quelle che noi chiamiamo le invasioni barbariche e la caduta dell'impero. Beh, che dici David? Che dici? Ecco, che dici? Cosa dico? Che questo qui evidentemente l'impero romano è caduto perché non ha saputo gestire questi flussi. No, ma non c'è qualche, secondo te non c'è qualche riferimento all'attualità? Ma il testo penso che l'abbia scritto Boso o Borghezio di questo documentario. No, dai, su, so. Dai. No, bellissimo, un documentario straordinario. Rai 3. Però secondo te non c'è nessuna cosa, non c'è nessun riferimento al presente, non si può fare nessun Oddio, riferimento al presente. Il dubbio ti potrebbe anche venire, ad ascoltarlo, se lo isoli dal contesto il dubbio ti Senti, potrebbe intanto, anche venire. Intanto, a proposito, verso l'Italia, io non so che tipo di accordi abbia stretto il signor Minniti, non mi interessa perché tanto non cambia nulla. Verso l'Italia pare che stiano navigando, viaggiando, veleggiando no perché non hanno più le vele, 10 navi con 7.300 migranti. 10 navi con 7.300 migranti. Subito di salvarli. Sbarcheranno forse in Calabria. Sì, ma queste cose annunciate ti fanno Calabria, capire. Calabria, ottimo. Calabria non c'è nulla. Quindi, almeno mettere delle forze nuove. Basta, come dire, sottrarle alla criminalità. Ma come dire, possono anzi aiutare i calabresi a diventare un po' più europei. No, adesso questo è brutto. È brutto. No, brutto un cazzo. Cioè, siccome in Calabria non c'è nulla. Calabria, cosa c'è? C'è un po' di mare, ci sono i bronzi di Riace, c'è un po' di criminalità. Ecco, questo tu è dici, anche la. Gli immigrati la possono questione. Aiutare. Gli immigrati, forze nuove, quindi se non finiscono, come dire, dici, nelle possono maglie, battere l'andrangheta, possono loro. Bravo! Se con, la con l'aiuto e la presenza del, no, è serio, con l'aiuto e la presenza dello Dai. Stato, evitando che diventino manovalanza. Beh, quello succede, però quello succede. Ecco, quello bisogna evitare. Possono anzi portare energie nuove a una terra. A una terra. Questo è brutto quello che hai detto. Sei peggio di me quasi. Io che la chiamo Calabria Saudita, tu dici non c'è un cazzo, meglio che arrivino i migranti a dare nuova energia, nuova linfa, nuova vita. Vabbè. Comunque in Danimarca. Come si dice? Adiuvandum, bravo. In Danimarca. Adiuvandum. Cioè. Ma non si dice nemmeno così in realtà. No, Adiuvandum. No, non so, forse le scuole serali tue si diceva diversamente. Ma però qui si dice. In Danimarca un ministro donna, per ridurre i migranti dobbiamo ridurre la crescita della popolazione africana. Dunque diffondere contraccezione e aborto. Ti giuro. Gente è matta, in Danimarca. No, però questa è una vecchia tesi. In realtà non è una diffondere detta così. Contraccezione e aborto. Beh, sai che anche Pannella diceva bombardiamo l'Africa, di soft power, bombardiamo le dittature con film porno, preservativi. C'era una fase in cui Pannella. Ragazzi, comunque il Papa, invece di rompere le balle a noi sugli immigrati, dovrebbe veramente fare una grande campagna a favore dei preservativi in Africa. Cioè, il Papa, se fosse veramente Papa, cioè se fosse veramente uno che pensa al futuro, dovrebbe bloccare l'immigrazione in questo modo. Cioè, diffondere i preservativi in Africa, lui che può distribuire, con le sue mani, i preservativi, dare i preservativi, loro hanno tanti soldi, comprare migliaia e migliaia di preservativi e diffonderli a piene mani ai preti africani. Milioni, va benissimo, milioni. E comunque la spiaggia fascista di Chioggia, 3.000, più di 3.000 mi piace su Facebook, caro Parenzo. Vabbè, ma sei la rete. Cioè, nel senso che questo attacco alla libertà produce reddito, produce vantaggi. Io produce non vantaggi. Tollero che tu definisci questa immondizia attacco alla libertà. Invece sì, purtroppo. Non c'è sì. nessun attacco alla libertà, non c'è un bavaglio al pensiero, c'è un bavaglio all'istigazione all'odio e all'apologia di fascismo. Non c'è bavaglio. Allora, da Latina Matteo, vai Matteo. Ciao Giuseppe. Dimmi Matteo, dimmi. Ma, allora, Latina, vabbè, lo sapete, è stata fondata da lui, no? Dal nipote di Alessandra, diciamo, nel 32. E c'era un parco che si chiamava Arnaldo Mussolini, diciamo, no? Arnaldo Mussolini è un nipote di Benito. E qua ha vinto uno di sinistra con una lista civica, un mascherato di sinistra, diciamo, e ha tolto questo nome con un procedimento amministrativo vago, ecco, e lo ha intitolato a Falcone Borsellino. Cioè hanno tolto, sì, ma è una notizia di qualche mese fa, mi sembra, no? Eh, No, no, però adesso proprio il 19 verrà la Boldrini, che è la moglie naturalmente che è la moglie di fatto di Parenzo, la Boldrini, no? E questa è buona, verrà la Boldrini ad inaugurare la moglie di fatto di Parenzo. Guarda, ma che quello... secondo me invece ti sbagli, perché Parenzo la Boldrini non la sopporta. Roba dei monumenti è un'aberrazione totale, una sciocchezza micidiale. Aspetta, ragazzi, non vi accavallate. Matteo, che c'è? Che vuoi dire? E che sono dei gran visir del politicamente corretto. Non ho capito, qui la storia è, mi sembra, che hanno cambiato il nome a un parco intestato a uno dei Mussolini per intestarlo a Falcone e Borsellino. E spaccano una città su Falcone e Borsellino, ma secondo te è una cosa normale? Spaccano la città, non esageriamo, la gente ha altre cose a cui pensare, non l'intitolazione di un parco. Comunque è tipico di una mentalità, per carità, ovviamente non ho nulla contro un parco intitolato a Falcone e Borsellino, tutt'altro naturalmente. Anche io. Assolutamente, perché togliere un Mussolini e mettere un Falcone e Borsellino? Ma te lo chiedi. Ma non ho capito, perché tu sei d'accordo con questa cosa, Parenzo? Ma scusa, ma non c'è neanche da chiedere. Ma fatti fare, ma due eroi dell'antimafia. Ma cosa c'entra? Messo il nome, tanto già il fatto che ci fosse intestato un parco a forse un parco per i cani, per fare la pipì, per fare le deiezioni animali, fosse un parco per quello, no? Ma cosa c'entra? Dai, su. Fosse un parco riservato, tu sai, a Castel Gandolfo, a Castel Sant'Angelo a Roma, c'è un parco, un giardino. Dentro questo giardino c'è un piccolo recinto dove vanno i cani a fare la cacca. Ecco, se quello fosse intestato al Duce, io lo potrei capire, ma non era nemmeno il Duce, dai, era un altro, dai, è un parente di Mussolini, ma che cazzo ce ne frega, dai, su. Come un parente? Ma era un parente, non era Mussolini, giusto Matteo? Esatto, era un parente lontano tra l'altro, ma poi dovremmo buttare giù tutti i monumenti di Latina, tu pensa? Ma non ho capito, cioè, la questione è ideologica, l'hanno fatto perché non andava bene? La questione è ideologica, perché hanno detto basta, questi consiglieri comunali che hanno i capelli lunghi, pirocchiosi, rasta, queste zecche, diciamo. Ma no, adesso detto, zecche, no, consiglieri comunali zecche. Mussolini, quindi si deve togliere perché Mussolini, 70 anni. Ma non che si sono imbecilli, dai. Matteo, ciao, Sandro da Modena, vai. Sandro. Sandro. No. Dimmi, Sandro. No, buonasera. Dimmi, Sandro. No. Ah, io ti volevo dire che alle 6:30 smetto di lavorare e mi sintonizzo subito sulla Zanzara. Sì, e beh, ottimo. Siete divertentissimi. Vabbè, allora? Specialmente. Allora, dopo un po' mi sintonizzo su Radio Maria perché siete insopportabili. E chi se ne frega? Questo è giusto, un equilibrio. Però, siccome posso dirlo, lo dico. Ma tu lo dici, ma noi non ce ne frega nulla, assolutamente nulla. Nulla di nulla. Ma a me ancora meno. No, ma anche a noi non ce ne frega niente, sei un po' ubriaco. Capisco che l'ubriachezza porta anche a cambiare da Radio 24, cioè dalla Zanzara a Radio Maria, questo lo posso capire. Ma è molto più interessante. Sì, assolutamente, se tu sei più interessato a Radio Maria, se tu sei interessato a Radio Maria, noi siamo contenti. Vero. Cosa? È molto più interessante Radio Maria di sì. No, Parenzo non ha mai detto la cosa 24 simile. Specialmente sì. La Zanzara. Sì, tu dunque telefoni apposta per dire una cosa di questo tipo. Intelligente. Sì, sì. Tu se non sei ubriaco, se non sei ubriaco, dei rompicoglioni. Sì. Che io ve lo dovevo dire questo. Ve lo dovevo dire questo, certo, ce lo dovevi dire. Vabbè, sei ubriaco. Pazienza, l'ubriachezza è una cosa abbastanza diffusa in Italia. Si può curare, ci sono dei centri speciali. Ma noi siamo a favore della cura dell'ubriachezza, giusto, David? Cioè, siamo assolutamente, abbiamo la convenzione del ministero. Però dopo un po' romperti i coglioni. Ti abbraccio, ciao, ciao. Ciao, caro, ciao. Grazie, ciao. Per il tuo cervello, scegli il meglio, la Zanzara. La Zanzara. Fidati di un miserabile, fidati di un miserabile. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Nilox.com, dove la tecnologia diventa sport. La Zanzara. Ieri per caso Parenzo, dopo mangiato, mi è capitato di girare sulla 7. Sì. Ma sei veramente una roba imbarazzante. Tu sembri Mr. Burns, il capo di Homer Simpson, uguale, bianco, con queste occhiaie. Tenese sembra Hitler uscito dal McDonald's. Veramente, avete fatto una bella definizione, però. Nausea, ragazzi. Però devo dire, è anche simpatico questo. È stupido, simpatico. Ma parli sempre delle brocche e tutto. Però, fratello, io te lo dico con tutto il cuore. Ma fratello, non è che deve essere fratello, un modo di dire, perché tu non sei mio fratello. Però, fratello, non è che deve essere presentabile solo la tovaglia, anche tu. Cioè, con quella faccia, vatti a fare una lampada, vatti a mettere un orologio di occhiaie, vai in palestra, fai qualcosa. Sì, perché io sto lavorando con la testa. Ma studio, no, tu non lavori con la testa, tu lavori con un'altra cosa, che è una che è un organo riproduttivo. Con le troie, col cazzo lavoro. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Hai visto Macron? Hai visto? È meglio lui della Le Pen. Mi David! Scrive in questo momento il signor Simone Di Stefano, ancora, leader di Casa ancora. Pound. Ecco, ma che c'è un filo diretto con Di Stefano continuamente? No, mi scrive, cioè, ti scrive continuamente. Cioè, questo è veramente curioso. Cioè, abbiamo... il democratico comunque... ebreo, cioè Parenzo, che mi ha scrive, un filo diretto con il capo di Casa Pound. Lui ha il mio numero, io anche ho il suo, perché mi è capitato di raccontarne le gesta di questi signori, questa fascisteria. È come la storia di Napoli, è come la storia di Napoli. Ma che c'è, non c'è da niente. Comunque scrive Di Stefano, io lo so, virgola, che Cruciani alla fine voterà Casa Pound. No, questo e no. Ti manda un abbraccio fortissimo. No, così scrive. Questo adesso, te lo posso assicurare. 19:36. Signor Di Stefano, te lo posso io assicurare. So che Cruciani alla fine voterà Casa Pound. Un abbraccio fortissimo. No, adesso, io avrei un certo terrore a farmi abbracciare da Casa Pound. Perché l'abbraccio di Casa Pound, ho paura sia un abbraccio mortale. Io non ho problemi. Non ho nessun tipo di problema con Casa Pound, figuriamoci, non ce l'ho per... Signori di Casa Pound. No, signori. Non ho nessun tipo di problema. Chiedo scusa chi per la parola signori, eh. Chi li attacca volendoli mettere fuori legge, certo, è un coglione. Tutto andrebbero, per certe cose fuori legge. Messi, ovviamente. Fuori legge, adesso tu stai parlando al telefonino con uno che vuoi mettere fuori legge. No, cioè da dire questo, loro a differenza delle cosiddette forze nuove lì, quella roba lì, sono un po' più furbi. Quelli di Casa Pound, intanto sono più colti, questo bisogna dirlo. Cioè quelli di Casa Pound sono più colti e sono più furbi. Perché non fanno riferimento al vero, al fascismo, sono più furbi. Hai detto prima che li vuoi mettere fuori legge, dai. Mentre quei somari di Forza Nuova, vabbè, quelli sono gente frega, pericolosissima, non vabbè tanto per dire. Ti voglio leggere una cosa che ha scritto fino a prova contraria, cioè fino a smentita, il signor Roberto Cavalli. Sai chi è Roberto Cavalli? Naturalmente, Roberto Cavalli, ma ci mancherebbe altro. Lo conosce tutto il mondo, lo conosci anche tu naturalmente, anche se non sei un esperto di moda tu, dalle giacche Cavalli, che porti, che vengono molto criticate, le giacche che porti in trasmissione, molto criticate. Sì, tu, alcuni dicono che porti sempre alcuni dicono che porti sempre per esempio la stessa giacca, cambiano ogni tanto. Io cambiano. Ho dei vestiti blu normali, cambiala, non posso dire la marca perché cambiala, altrimenti mi accuseresti di appunto, fare marchette, quindi non dirò mai le marche di questi vestiti, ma sono ottimi vestiti di ottimo taglio. Ah, dunque in lino, hai vestiti pagati, te li offre qualcuno i vestiti? Me li pago io. Comunque Roberto Cavalli cosa ha scritto? Tutti i giorni vi coinvolgo nei miei pensieri, nei miei sogni, nei miei desideri. Adesso voglio confidarvi che io non sono un centrista né di destra né di sinistra, non c'entra un cazzo, cioè non sono né... da sempre sono un vero comunista, ho cercato di essere vicino a tutte le persone che mi hanno amato e capito. Oggi l'Italia è un paese allo sbando, anzi dice allo spando, beh, sarà un errore, poiché non esiste più nessuna forza che riesca a lottare contro una destra fascista. Essere al centro è come un uomo con una palla solo, non può essere vero, dai, non c'è né grinta né carattere. Vi faccio immaginare Roberto Cavalli che votava Palmiro Togliatti. Senza una vera forza sindacale, dei giusti contratti per i lavoratori, non potremo mai far sorridere l'Italia, ragazzi. No, questo qua, ma avete passato un fake, non è possibile che sia lui, dai, cioè, non è possibile, qualcuno ha visto nel suo profilo, è vero, cioè, da sempre sono un vero comunista, dai, su. Voglio far sentire una cosina di Roberto Cavalli, sentiamo. Che incomincerete a conoscere me prima di tutto, dalla mattina alla sera, poi tutti i miei animali, perché io vivo con un cane lupo 24 ore al giorno, è meraviglioso. Quello potrete vedere. Con una piccolissima canina che si chiama Rosa, anzi che mi ha fatto diventare nonno perché mi ha dato 4 canini. Il 13 per ora, poi li ho già destinati. Poi ho un pappagallone bianco che si chiama Oro. Poi ho una maglia che nessuno conosce. Ogni modo, effettivamente conoscerete tutta la famiglia Cavalli. Il pappagallone bianco chiamato Oro. Oro. David? Che cazzo stai a fare? Stai grattando le palle? Che fai? No, mi stavo un attimo grattando le palle. Mi stavi grattando le palle. Mi stavo semplicemente un attimo rilassando e ascoltando questo signor Cavalli. Molto simpatico. Parenzo, tu sei un paradosso come il PD. più parlate e più la gente va a destra. Tutte valutazioni Enzo messe da Napoli, dalla corte, dai. Tutte Enzo da Napoli. Dimmi, cose dimmi. Tagliate arte per costruire non c'è ne sono. Io a questo gioco al massacro non ci sto. Enzo, vai Enzo. Poi pronto, ciao, ciao. Dimmi. Senti una cosa, io volevo parlare a proposito di quello che ha scritto il signor Feltri. Sì, signor Feltri. Dovremmo chiamarlo fra poco, signor Feltri, dimmi. Pure. Io avevo prima di lui, ma se è vero che ha scritto, non l'ho detto per proprio l'articolo, ma se è vero che ha detto una stronzata del genere. Quale, per esempio? È quale? È quello là che i napoletani ci bruciamo da soli. Ma di una cosa a Feltri, ma mai provato a denunciare qualcuno e vedersi la casa poi imbrattata il giorno dopo bruciata? E lo Stato dove stava? Ma che c'entra? Scusa, non ho capito bene. Che cosa sì, perché cos'è? Come che cazzo c'entra? Che noi ma che cazzo c'entra? Ci bruciamo da soli. Non solo a Napoli si bruciano da soli. Io trovo bellissimo, sì, molto poetico questo titolo. Allora mi fai incazzare pure tu. Napoli si bruciano da soli. Ma che cazzo vuol dire? Vuol dire che ma lo trovo straordinario. Siamo noi napoletani che li creiamo. Ma che discorso che mette? Qualcuno del luogo deve aver appiccato il fuoco, non credo che siano arrivati dal nord. Che significa che siamo che ci applica, ma se tu vedi un piromane a Napoli si bruciano da soli, che cosa fai? Vabbè, ho capito, ma è un fatto questo qua, che a Napoli si bruciano da soli, è un fatto. Non è un fatto che si bruciano, sì, certo che lo so, ma dire che non si brucia, guarda che a Napoli per quattro stronzi mafiosi che ci stanno è come un rischio, non è che si va tutta la città davanti, è ora di finirla che è Napoli. Senti, io ti porto un paragone, per me Napoli sa com'è? È un fratello diciamo noi che non è buono, non sappiamo è buono. Che non è buono, ma nessuno ce lo deve toccare, ma chi hai ci sotto devo dare le soluzioni, è facile. Una parlare, bambina, chi? Gli altri? Chi c'è? Un bambino? Io vorrei conoscere il nonno di Feltri. Chi cazzo è? Prima di diventare Feltri. Perché noi ci hanno tolto tutti, adesso ci hanno rimasto solo la rottura di palle a Napoli. È ora di finirla. La gente del mezzogiorno è più portata a collaborare con i delinquenti, temuti e venerati. Hai capito? Che non con le forze dell'ordine poco rispettate. Ma questo è vero, però è una realtà. Ma scusa, basta, è così. Per anni è stato così. C'era una questione. Adesso ti ho ascoltato, mi hai rotto i coglioni. Le grandi forze della. Sono bravo a rompere i coglioni. Senti Enzo, fermo, dove vai? Fermo, questo c'è il ragazzino, Lucio da Reggio Calabria. Fammi sentire Lucio. Sì, pronto. Sì, dimmi Lucio, dimmi. Buonasera, ascolti, io vorrei parlare là con questa persona che l'hai a fianco. Sì, forse evoca il mio nome il signore. Sì. Forse no, evoca il mio nome questo signore. No, evoca il mio nome. Ma sì. Ascolta, perché parli così della mia Calabria? Perché ma tu lei quando evoca... parli della Calabria tu ti devi sciacquare. Capito? Si arrabbiano tutti, non capisco perché. Non ho capito. È una cosa normale, mi pare, come direbbe San parlare Lucio, così della normale. Mia Calabria. Ma quale Calabria? Ho detto semplicemente che l'arrivo dei migranti aiuterà anche lì il territorio a crescere, a diventare allora, più internazionale. Sai che cosa ti ho classificato io a te? Ce l'hai Sentiamo. Presente un gatto quando vomita? La stessa cosa sei tu, parente. Immagine terribile, però. Come un gatto mentre vomita? Che vuol dire sì, un gatto? Giuseppe, quando un gatto ingoia le spine dei pesci. Quello vomita, ok? Ma perché proprio questa immagine? Il gatto perché? Ha sette vite, perché, quindi è un ottimo complimento. Perché se li vuole, perché deve parlare male della Calabria? Ma non ha parlato male della Calabria, assolutamente. Ha detto Lucio. Non hai parlato male della Calabria. Non hai detto che non c'è niente in Calabria. Ho detto che ci sono i bronzi di Riace. Ho detto che ci sono alcune belle città. No, però non è un territorio così. C'è il mare. L'arrivo dei migranti può aiutare anche questa terra a diventare più internazionale. Giuseppe, una domanda te la posso fare? Dimmi Lucio. Ma scusa, ma a sto stronzo chi cazzo l'ha messo a Radio 24? Io. Ah, tu. A Radio 24. Allora, Lucio, ti devo dire la cosa. Allora, però, sul fatto che in Calabria, insomma, c'è poco e niente, questa è una realtà, dai. Su, non è che lo dico io, cioè, non è che sia. Cioè, è una regione così interessante, però insomma. È bellissima sarebbe, però cioè, c'è un po' di problemi, no? No, non dire che è bellissima, non ti interessa te se sono stato tante volte, sono stato a Reggio Calabria, ma non tantissimo. Ti vogliamo, parente, fammi sentire quello ma che io ci vengo dire lo per stesso. No, voglio dire, Lucio. Adesso voglio dire, anche io spesso sulla Calabria ci sono andato giù pesante. E quei bronzi di Riace dovrebbero essere portati in un altro luogo per far fruttare meglio tutto. Portiamoli via da lì, almeno sì, li ammira così, tutto il mondo, no? Reggio Calabria. Sì, così portatevi anche via i bronzi, vediamo un po' cosa ci resta. Ma sì, dai, portiamoli via, dai. Portateli via. portiamolo. E li dovevano portare in carrozzella tutte e due. Come in, come in carrozzella? Sì, no, questo non è buono. Questo è un segnale, ah, diciamo, è un frasario. Non è buono. Questo non è buono, sai, queste sono minacce, non è buono. In carrozzella non è buono, in carrozzella non va bene. Non è buono, quando glieli mandi tu è buono. No, quando io in carrozzella. In carrozzella in genere non si dice a nessuno. Lucio, io non auguro a nessuno. Lei sa, caro Lucio, che quando io sento qualcuno, lei poi dice di essere calabrese, che però mi dice che devo... Se lei, che è un signore calabrese, mi dice che devo arrivare lì in carrozzella, lei capisce, me lo dicesse uno di Milano, io non la prenderei come una battuta di spirito, no? Ecco, lo dici. Detta, ecco, però sa com'è, no? Detta da lei un po'. Vabbè, Lucio, pensare. Ti saluto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, abbiamo con noi ancora una volta un uomo che con i suoi titoli fa discutere, caro Parenzo. L'altro giorno ti ha massacrato, lì alla 7. C'è stato. No, ma quale massacro? Un confronto tra titani. Ti ha massacrato dicendo la verità, che a te, a Telesi, a tutti quelli che sono là a pontificare, eccetera, in fin dei conti, dei migranti non fotte. Ma non è vero, è ma pura a me interessa verità. Moltissimo. A me interessa moltissimo. Vittorio Feltri con noi, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti voi. Ecco. Come andiamo? Allora, eccoci. Bene, quante querele, oggi un da trionfo. Napoli per il titolo? A Napoli si bruciano da soli? Quelli si bruciano da soli e poi danno la colpa allo Stato. Non si può querelare uno che racconta la realtà. Ecco, ma già si è mosso De Magistris? Che tu sappia. No, De Magistris si è mosso contro di me, sì. Per altri motivi. E ho scritto una lettera e subito mi è stata tolta la querela, che era stata indirizzata male, perché io avevo condiviso con i miei colleghi un titolo che diceva Piagnisteo napoletano. Sì, me lo ricordo benissimo. Ecco, dove sia l'offesa nel Piagnisteo, sinceramente, non era detto cornuti napoletani, Piagnisteo napoletano. Quindi non capisco perché mi dovessero querelare. Allora, per le cose di oggi, a Napoli si bruciano da soli, c'è una signora che tu conosci, forse, che si chiama Fiore. Beh, però è vero, cioè non è che uno si è appiccato il fuoco, sarà stato un napoletano, non è che sono venuti dal Piemonte ad appiccare il fuoco. Sì, e tu? Neanche da Trieste. Credo. Non credo, è stata gente del luogo. Ma non per lo sappiamo, motivi, bisogna per fare motivi, le indagini, bisogna capire. Sì, ma per motivi più vari, però è vero che un titolo può sintetizzare: a Napoli si bruciano da soli, mi sembra addirittura da soli, perché non è che è colpa dello Stato se un coglione napoletano dà fuoco al bosco. Credo che si possa incolpare neppure Gentiloni, che è colpevole di tutto, però insomma, non si può dire che ha anche acceso il fuoco, e quindi i napoletani si sono dati fuoco da soli, ma non è mica colpa di tutti i napoletani. Beh, tu hai aggiunto anche che una cosa: la gente del mezzogiorno è più portata a collaborare con i delinquenti temuti e velenati che non con le forze dell'ordine. Ma perché ha paura della camorra, ha paura della criminalità organizzata, per cui sta molto attenta a non irritarla. Questo crea un clima, diciamo, che è più favorevole alla delinquenza che alla legalità, ma dunque, non mica tanto a capirlo. No, anche quello, Parenzo, uno dice la gente del mezzogiorno è più portata a collaborare con i delinquenti, è vero, è una questione. Insomma, mi pare una semplificazione anche questa, mi dispiace doverlo dire, ma insomma è una semplificazione. Perché ma tu che fai il giornalista sai meglio di me che bisogna semplificare, perché se complichi, se non sei un giornalista ma un coglione. No, però adesso al di là del fatto della possibilità di essere un coglione, devo dire, ma una cosa che si può, tutti, perché si può anche, l'ora del coglione prende però, tutti. In questo però, momento sta prendendo il compito te, di un giornalista, oltre a quello di semplificare, è anche quello di provare a raccontare la complessità delle cose. No, no? Io racconto le cose, e vedo che il Vesuvio è in fiamme. Che il Vesuvio è avvolto da una nuvola spaventosa di fumo. Sì. So che non sono stato io e neanche i miei. Nemmeno io. Mio amico Cruciani, quindi apprendo da varie fonti di informazione che lì ci sono dei napoletani, sì, più o meno, sì, che hanno interesse a proteggere l'abusivismo, sì, anche perché lì mi pare che ci siano, non so, 70.000 edifici, sì, abusivi. E non è che li ho fatti io i 70.000 edifici abusivi. No, nemmeno io, te lo posso assicurare. Non ho collaborato. e non credo che siano persone della Smara che l'hanno fatto, sono persone di Napoli che hanno violato la legge e fra l'altro con la condiscendenza dell'amministrazione pubblica che non è mai intervenuta. Su questo non c'è dubbio, dai. Allora, questa non è una semplificazione, è la narrazione della realtà. Questo anche Parenzo, che sì, lo so che è piuttosto duro di comprendonio, ma lo deve capire. Io sono non è contro... una semplificazione, è la narrazione, non la semplificazione. Sì, ma questo devi anche mettere in conto dopo un titolo come il tuo la gente si incazza per usare un linguaggio brutale. Non frega niente se si incazza la gente. Capito, la gente si incazza sempre quando gli dici la verità. Ma è normale se uno, scusate ragazzi, si scopre l'acqua calda dicendo che al sud c'è una connivenza tra le persone, come dire, tra la cittadinanza e la criminalità organizzata. Sì, ma se Parenzo avesse letto attentamente il mio articolo, io davo anche una spiegazione pseudo-sociologica di questo fatto. È normale che accada perché non c'è nulla di antropologico, ma tu, io, chiunque, quindi anche i napoletani, siamo condizionati dall'ambiente, il nostro comportamento deriva dall'ambiente che ci circonda, ma è normale. E dunque Parenzo non lo capisce, io un giorno, se proprio ci tiene, viene a pranzo con me, spero che offra lui, gli spiego in che cosa consiste il condizionamento ambientale. Andiamo a colazione al Baglioni, tuo ospite, perché deve pagare sempre chi guadagna di più. Io sono in questo applico il welfare Parenzo, che guarda chi che guadagna saputo, di più paga. Ho saputo che tu alla 7 hai strappato un contratto meraviglioso, quindi no, non puoi dici? Più fare il povero con me, quindi devi offrire tu, perché hai preso un sacco dici? Di soldi da ma per carità ma ieri sera ero a cena con Cairo, non mi racconta le palle. Ma cosa dici? Questo la verità, bravo. Un sacco di soldi, se vi rompo i coglioni. Bravo. Adesso perché le merito di più. Sei diventato ricco ormai, non puoi più rompere il cazzo, sei diventato ricco. Ma dite delle cose. La parola Terronia, vi faccio una querela per diffamazione a tutte e due. Comunque. La parola tu mi quereli per diffamazione perché dico che guadagni tanto, mi dovresti querelare se dicessi che guadagni poco. Ma come, che cazzo dici? Sembriaco già a quest'ora. La povertà a te notoriamente esatto. Vittorio ti fa un po' schifo, diciamo la verità. Ma sempre fatto schifo, l'ho combattuto e l'ho vinta. L'ho vinta la povertà. E i poveri, bene, e i poveri meglio non starci accanto ai poveri. Io però ai poveri do un consiglio, un consiglio serio. Sì. L'unico consiglio che posso dare ai poveri è di diventare ricchi. Di non rompere come si fa? Bisogna creare le condizioni per farlo. E di non rompere i coglioni ricchi. Le condizioni te le devi creare tu, non tua sorella. No, nello Stato. Senti, ma la parola Terronia si può usare? Perché molti sono incazzati perché tu hai utilizzato la parola Terronia. Cinico il Terrone, la gente non sa neanche da che cosa deve. Terrone è da terra ballerina. Deriva da terra ballerina perché al sud ci sono notoriamente più terremoti che al nord. E quindi la terra ballerina e chi poi oltretutto lavorava la terra e traeva il proprio sostentamento lavorando la terra era considerato terrone, ma non è un insulto, anzi è un elogio. Uno che lavora la terra non è più bravo di Parenzo nel tempo, che nel dice stronzate alla radio pagato però pagato. Nel tempo allora, è stato considerato io però io stimo di più i terroni. Io ho scritto un articolo qualche giorno fa parlando delle mie vacanze in Molise chi se ne frega, ma ti dico invece il motivo per cui ma frega niente le vacanze in Molise perché sei un pirla che non mi lasci finire di parlare. Capito, ma cosa me ne frega me delle tue vacanze in Molise, direttore? Scusami, nulla. Se tu hai la pazienza di ascoltare, per carità, sono qui, vado a cena, non mi fate parlare. Sta zitto un attimo. Come sono diventato terrone in Molise? Ho raccontato come io sono diventato terrone, quindi non posso. Ma tu abiteresti mai a Napoli? No, a Napoli io sono stato anche molti mesi e sono stato benissimo. Perché se hai 4 soldi in tasca, a Napoli vivi da re, da principe, quindi non è un problema. Però a Napoli non ci abiteresti mai, diciamo la verità. Ma io sono nato al nord, ho sempre vissuto al nord, quindi preferisco vivere qui, anche perché qui ci sono i giornali, mentre a Napoli insomma ma perché uno si deve uno si deve guardare allo specchio e sputare se fosse per un napoletano specchio e sputi. Ma anche tu però isoli una frase e la decontestualizzi. Io ho detto che purtroppo chi ha appiccato il fuoco a Napoli sono alcuni napoletani. Ah, questi si devono sputare, questi. Non tutti. Non, c'è un trattino, dice non tutti, ovviamente, il trattino chiuso. Sì. Si deve sputare in faccia e non dare la colpa allo Stato, perché non è lo Stato che appicca il fuoco. Allora, ma cazzo, ma come fate a non capire? No, ma io già l'ho detto ieri. No, ho capito, va bene. Scrivo in un linguaggio che è comprensibile a tutti. Ma allora, la Mannoia, capito. Dopo me lo dici, dopo la pubblicità, scrive: a Napoli non si bruciano da soli, idiota. Riferito a te, eh? Fiorella, la cantante, la conosci la cantante Fiorella Mannoia? Me ne foto, a me piace la Mannoia, è una cantante fantastica. Ma se la Mannoia interviene nel mio lavoro, del quale non capisce niente, perché evidentemente non ha compreso il mio testo, e mi dà dell'idiota, mi viene da dire, io mica la querelo. No, ma al massimo posso restituire l'insulto dicendo che è lei idiota se non sa leggere. Io che invece so scrivere e leggere, non sono idiota, è lei idiota. Fermi tutti. La Zanzara. Io personalmente me ne frego degli immigrati. Io abito in collina a Bergamo, in mezzo al verde, e io proprio me ne sbatto degli immigrati. Ne arrivino quanti ne vogliono. A questo gioco al massacro io non ci sto. E a me non me ne frega niente. Allora, con noi Vittorio Feltri. Però Vittorio, lo sai che c'è qualcuno che sostiene che effettivamente noi non dovremmo preoccuparci per l'arrivo degli immigrati perché costano meno, diciamo, perché offrono mano d'opera a basso costo. Cioè, questo è criminale, però chi li sfrutta. Sarà criminale. Per... È criminale. Ma sarà criminale, nessuno dice il contrario, però fanno delle cose. C'è qualcuno che dice non ci dobbiamo preoccupare, anzi gli italiani fanno male a preoccuparsi dell'arrivo degli immigrati, perché gli immigrati in qualche modo fanno lavori che noi non facciamo più, eccetera. Eccetera, o no? Sì, ma io penso che gli immigrati, a Parenzo, a te e a me, non diano nessun fastidio, no, perché siamo in quartieri, diciamo così, puliti di un certo livello, quindi non ci vengono a disturbare. Ma i poveracci che abitano, non so, a Quarto Giaro o in altri quartieri periferici di Milano, ma non solo di Milano, perché poi esistono anche altre città, Brescia, Bergamo, e lì anche al sud, e lì invece creano dei problemi a quei poveracci di locali che si trovano ogni giorno davanti a situazioni imbarazzanti create appunto dagli immigrati. Allora, Immigrati non è che creano problemi perché sono immigrati, cioè immigrati creano problemi perché sono degli estranei che arrivano, che non hanno un alloggio, che non hanno un lavoro, che non hanno praticamente una situazione stabile. Bisogna integrarli, questo non infatti ci vuole molto a capirlo, no? Forse riesci persino tu a capirlo. No, ma dico che bisogna rimettere a posto, bisogna sistemare, cogliere l'occasione per ripristinare le periferie. Ma io non dico che non bisogna sistemare. Non bisogna farli arrivare, Le persone, diciamo così, che non sono abbienti, che non hanno un reddito notevole, che non abitano in zone infestate dagli immigrati, e se ne strafregano degli immigrati. Infatti tu gli immigrati li avrai visti forse in fotografia, ma non hanno mai avuto a che fare con loro. Ma come no? Ma se tu avessi a che fare con loro tutti i giorni, come la maggior parte delle persone, diciamo, prendo anch'io normali, l'autobus, la metropolitana, le cose. Non è che... ma tu non vai in metropolitana. Ma non è che io viaggio con l'autista. Io prendo la metropolitana, prendo gli autobus. Ma la tua macchina, quale metropolitana? Ma quale macchina? Io ho la mia macchinetta. Con reddito che ti fornisce la sette, non dovrai raccontare che vivi da barbone. Perché se vivi da barbone sei pirla. Perché non vivo da barbone, ma non vivo neanche da milionario. Ma cosa dici? Ma io non lo so, ma vai, la cosa pazzesca. Ma non prendi mai la metropolitana, diciamo. Ma voi non sapete voi di quello che faccio io. Ma cosa ne sapete voi di quello che faccio io? Tu l'hai presa la metro? La metropolitana non l'hai mai presa tu, mai? Ma io mai, non ci stiamo prendendo la metropolitana, non me ne frega niente. Così non incontro né neri, né abbronzati, eccetera. Quindi io io sinceramente non posso lamentarmi degli immigrati perché non so chi siano, non li frequento, non li vedo, non li vedo, per cui me ne frego del problema degli immigrati. Ma sbagli, no, sei cinico, cinico. È la realtà, non è cinico, è la realtà. No, è la realtà, è la realtà e basta. L'auto, l'autobus, per esempio, l'hai preso? L'hai preso qualche volta l'autobus? Io? Negli anni 50 forse. Sì, l'ho preso in anni in cui non esistevano gli immigrati. Mi ricordo che a Bergamo c'era solo un negro, uno solo. Un negro, un uomo, uno di colore, un nero. Diciamo. Negro, sì, ma un negro. No, ma allora si poteva dire negro, perché io ti invito a leggere un romanzo di Richard White che si chiama Ragazzo Negro e l'autore è negro e si è dato questo titolo. Ma diciamo di colore, negro. Meglio, quindi detto negro. Cerchiamo ma di no, no, va bene anche negro. Che la moda linguistica è una cosa e la realtà linguistica è un'altra. Li abbiamo sempre chiamati negri, adesso non possiamo più. Benissimo, chiamiamoli neri. È lo stesso, a me non me ne frega niente di un aggettivo, anche sostantivato. Il problema è che a Bergamo, dove io ho vissuto fino a 22-23 sì. anni, poi me ne sono andato, ce n'era uno solo. Sì. E naturalmente quando lo vedevano in giro lo guardavano. Ma non è che lo guardavano perché erano razzisti, ma perché non li avevo mai visto i neri. Ma cosa allora, c'è? Dov'è il problema? Ma adesso che ce ne sono 100.000 a Milano, è chiaro che insomma cominciano a rompere i coglioni, o no? Ma che ragionamento è? Ma come si fa a dire una roba simile? Guarda che ma che dice la realtà è questa. Ma, ho capito, ma non tu a hai... me, non, rompo, non dico che rompono i coglioni a me. Ma basta a girare le grandi metropoli europee, a Londra, a Parigi. C'è infatti un... si vede cosa combinano. Ma cosa che combinano? Dica oggi... perché l'immigrato scusa, commette più reati degli italiani o dei francesi. Non mi risulta dai. Che gli attentati terroristici siano commessi dagli svizzeri. Scusami Vittorio, ma immaginati in un autobus a Milano oggi, in un autobus, prenderesti mai un autobus oggi a Milano? Ma neanche è morto. Ma ho capito, ma lui, ma perché lui ha la macchina con l'autista che lo scorrazza dappertutto, ho capito? Infatti ma... è per questo che ti dico che me ne foto degli immigrati. Ma io invece perché no, non io li me... frequento, vivo tu li frequenti, in questo mondo, vai nemmeno a cena tu. Con gli immigrati. Nemmeno tu, Parezzo, dai, ma cosa vuol dire vai a cena, vai a cena con gli immigrati? Vai a cena con Mentana. Ma no, ma vai cosa c'è? Ma anche con te vengo a cena. Ma anche con te vengo a cena. Vai a cena con la Roma bene, vai a cena con la Roma bene, con la Roma borghese. Tu non sei la Roma so bene, tutto, Cruciani. So tutto. Tu sei la Roma no, me, brutta. Tu sei la Roma no. brutta. Io vengo manco, a cena anche con te. Non figurati. Sono manco a Roma. Io e tutte le volte che vengo a cena con te mi tocca pagare come al solito. Fai quella ma cena patetica. Dici scusami, mi allunghi un cinquino. Non immaginare Parenzo che offra una cena. Però scusami, Vittorio, c'è Gervaso nei giorni scorsi che ha detto: a proposito, prima ti voglio chiedere della vicenda di Soardi Salvini. Ha ragione di incazzarsi il signor Salvini? Sempre se tutto è vero. No, ma Salvini ha lasciato la Isoardi un mese e mezzo fa, quindi che cosa vuoi che gliene frega a Salvini se la Isoardi bacia un altro? Attenzione, questa che ne sai tu, scusami? Lo so, se no non ne parlerei, lo so che l'ha lasciata e quindi se ne strafrega, perché non so se a te è mai capitato di avere una fidanzata, la molli perché sì. Evidente, avrai i tuoi motivi sì. E se poi viene a sapere che bacia un altro a te te ne frega qualcosa? Nulla, beh, dipende nulla, se sei ancora innamorato te ne frega ma non me ne frega nemmeno se la bacia mentre ci sto insieme, devo dire la verità, però quello può infastidire qualcuno, capisco. Vabbè, questo che perché infastidire. A te piace sì, essere vabbè, cornuto ma, insomma se uno è stupido si infastidisce, se una fidanzata che non ha più, che ha lasciato, va con un altro, è il minimo che ma porta è lui a fare. Che, è, lui che, è lui che l'ha lasciata? Sì, certo, lui l'ha lasciata un mese e mezzo fa, non so dirti esattamente la data sì. dell'abbandono, ma so che l'ha abbandonata, è chiaro che non gli ha fregato niente se no, poi ma come mai l'ha abbandonata? Si consola con un altro, ma scusa, ma è normale. Ma perché... sì, certo, assolutamente. Ma come mai l'ha abbandonata, secondo te? Capito, come magari mai? Ti può ancora non dispiacere. So, ma io voglio non voglio neanche saperlo, ma frega niente. Ma non avete sentimenti? No, ma qualcuno ha sospettato di essere... Ma no, che non abbiamo sentimenti, no, non se ne frega niente dei sentimenti degli altri. Ma no, facciamo fatica con i nostri sentimenti. Qualcuno... Salvini. No, ma qualcuno ha messo in mezzo una questione politica, le foto che sono uscite su chi, una manina berlusconiana dietro questa cosa, no? Ma no, ma sono cazzato. Tutte cazzate. Non ci credo. Tu può darsi, per l'amor di Dio, perché la realtà a volte supera la fantasia. Però Io non credo a questo. So che Salvini ha lasciato la Isoardi un mese e mezzo fa, per cui trovo del tutto normale che se ne spata il coglione e che baci un altro. Benissimo. Beh, allora, un'ultima cosa: Gervaso nei giorni scorsi ha detto che il modo migliore per mantenere un matrimonio è tradire la moglie. E su questo gli do ragione, perché noi interpretiamo male, perché lo chiamiamo addirittura tradimento. Ma quale tradimento? È una diversificazione, non è un tradimento. Questo è buono, la tua moglie a cui vuoi bene, la vuoi tenere ancora, che stai bene con lei, eccetera, però ogni tanto hai delle esigenze dalla cintura in giù, che cerchi di soddisfarle nel modo migliore. Perché io non ho mai conosciuto nessuno che dopo 30 anni, 40 anni di matrimonio scopi la moglie. Scusa, sarebbe incesto. Sì, non volevo esagerare, ma sarebbe una forma perversa di incesto. Questo già apre già tutta un'altra discussione. Io direi anche dopo pochi anni, diciamo la verità, dopo 4-5 anni, sei finì, mio amico Vittorio, sei finì. Come a volte anche meno. A volte anche meno. Ti abbraccio, a presto. Questa conversazione volge al termine. Ciao. Saluti. Raffaele, provincia di Arezzo, andiamo ragazzi. Mamma mia. Buonasera. Vai, dimmi. Guardi, dimmi. Volevo parlare con lei, Cruciani. Io mi meraviglio di come una persona, nella sua lungimiranza, che io la stimo molto, non capisca la differenza tra fascismo e comunismo. No, bravo. Senti, amico mio, non insistiamo su queste cose qua. Adesso io non ho voluto aprire questo capitolo col signor Feltri, eccetera, eccetera, altrimenti mi avrebbe dato ragione. Ragazzi, il comunismo ha fatto milioni di morti. Molti di più dei regimi fascisti. Basta con questa storia, Raffaele. Avete rotto i coglioni, ma no, vi vedete ma in giro? Mi faccio esprimere un attimo, aspetti, scusi, signor Cruciani. Le volevo dire che se noi abbiamo l'articolo 3,2 in Costituzione, l'uguaglianza sostanziale, abbiamo una sanità pubblica, abbiamo la libertà di opinione, anche grazie ai socialisti e ai comunisti. Cioè ma questo che dice, sì, ma ragazzi, non entriamo nel io sto dicendo il comunismo, la falce e il martello, ma cosa vuol dire? Simbolo di morte in moltissimi paesi, simbolo di morte. Ma che cosa basta. Stai dicendo? Ci ma vorrebbe, il simbolo del partito comunista disegnato dal grande Guttuso, i comunisti hanno liberato l'Italia, cosa ma c'entra? Firmano la Costituzione, ma erano d'accordo con i sovietici, mamma mia, Franco da Milano, Franco, basta, Franco, dimmi. Miseria, cosa mi tocca Franco, sentire. Senti, leggo questa notizia. Macerata, imputati napoletani non capiscono l'italiano e chiedono il traduttore. Sotto accusa per spaccio, hanno dichiarato di non capire la lingua e il giudice ha deciso di nominare per loro un interprete. Giuro, una storia vera. Ci sta. Sarà il primo a tradurre in napoletano gli atti di un processo celebratosi in un tribunale italiano. Ma che bellissimo. Lo ma ti pare normale che noi paghiamo? Anche questa cosa qui. Ma cosa? Gli imputati napoletani. Il diritto è rendere l'imputato edotto. Non capiscono l'italiano. Napoletani. Sono napoletani. Sono italiani. Napoletani. Ragazzi, dai, Franco, dimmi. Pronto, buonasera. Senta, volevo, visto che prima si parlava di immigrati, di fascisti, di cose, volevo ricordare, visto che se ne sta parlando soltanto sui giornali, che alcuni figli di padre ignoto, di generazione identitaria, hanno raccolto dei soldi per lo sappiamo, nave. lo sappiamo. Ecco, allora? Organizziamo una cosa. Allora? Portiamoli tutti in Cambogia. Ma chi? Un bel campo chi? Di rieducazione. Chi? A questi nipotini del Duce. Chi? A questi qui di generazione identitaria. Ma io non so manco chi sono, non me ne frega niente. Non me ne fotte nulla. Facessero quello che vogliono, facessero tutte le navi che vogliono. Se non rispettano la legge ci sarà qualcuno che li blocca. Chi se ne frega? Portiamoli in Cambogia. Ma che dici, Franco? Cosa dici? Cosa vabbè, dici? Vabbè, dai, ciao. Che hai bevuto? Che hai? Ma è successo? Ma che hai fatto? Hai bevuto? Che hai fatto? Impazzito. Paolo da Catania, anzi Claudio da Milano, vai Claudio. Claudio non c'è, Paolo, vai Paolo. Ciao. Dimmi Paolo, dimmi. Allora, per quanto riguarda... Non si sente bene, Sonia, vai, sempre Catania. Buonasera. Dimmi. Proverò a non dire nessuna parolaccia per non mettervi in imbarazzo, eh? Quindi proverò a farla brava. Vai, dimmi. Io volevo rispondere al discorso di Feltri che diceva che, vabbè, io sono siciliana, che i siciliani o le popolazioni del sud di solito sono conniventi con la malavita. Questo è verissimo. Bisognerebbe chiedersi perché, però. Vabbè, dai, perché? È un discorso lungo, dai, Sonia, dai, forza. No, il discorso è brevissimo, dai, siamo forza. Conniventi, vabbè, ma uno se chiama dimmi, vuole dimmi, farlo dai, dai, te lo so. No, il discorso è che siamo conniventi con qualcuno che c'è, pur nella tu malavita, stai dicendo che la malavita dà più dello Stato. Assolutamente sì, purtroppo. Questo è criminale. Gli emigranti arrivano questo e lo Stato li chiude. Questo è criminale. Ma è la realtà di chi vive no, è criminale, è criminale. Sì. Questo è criminale. Tu stai certo. dicendo una cosa criminale. Ti stupisce? No, stai dicendo una cosa criminale, che la malavita, cioè che la malavita offre molte più opportunità rispetto allo Stato. Purtroppo sì, perché lo Stato no, è purtroppo, manchevole. Ma sì, vabbè, basta con ste cazzate, dai. Basta. Hai mai visto cosa c'è al CARA di Mineo? Sei venuto a visitare i migranti chiusi no, al CARA di Mineo? No, malavita è stato... Allora tu parli di qualcosa che non conosci. Malavita è stato falla spesso... Parlare. Coincidono. Falla parlare. Purtroppo falla parlare. Voi parlate sovente di cose che non conoscete. Bravissimo. Dovreste vivere un paio d'anni in Sicilia, ma nella provincia c'entra? Di Catania, che c'entra, a Palermo, che a Napoli. Ma che c'entra la questione del CARA di Mineo? Che è una vergogna, è una vergogna, che è una vergogna. Certo. Nazionale. Allora ci sono due opportunità per i migranti: lo Stato li chiude e gli fa le sbarre, la malavita li fa lavorare in campagna a 3 euro. Sono d'accordo con te. Il problema è che non dovrebbero arrivare. Punto. Abbiamo organizzato questi campi, questa specie di campi per i migrati per rifornire di quattrini cooperative e spesso anche la malavita. Questo è il punto fondamentale. Solo per questo li abbiamo fatti arrivare apposta per una questione di denaro. Ma cosa sei impazzito? No, non accoglienza. Li abbiamo fatti arrivare. Esatto. Ma cosa dici? Li abbiamo fatti arrivare. Quindi partono perché Bonino ha detto un'altra cosa. Non travisare le parole di uno dei migliori ministri degli esteri. Non travisare le parole. Fermi tutti. Cuccio a rossa. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, niente non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là, da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. È una roba pazzesca! Sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Niente, non ce l'hai. La Zanzara. Volevo fare un appello a tutti quegli ascoltatori della Zanzara, ascoltatori per caso li chiamo io, che ci rompono i coglioni a dire che è un programma volgare e tutte queste cose qua. Volevo fare un appello con tutta la serenità del mondo, non c'è scassata una minchia, è cancellata in stazione, questa è la Zanzara ci sono parolacce per tutti, quindi non scassate il cazzo e se non vi conviene cambiate stazione, ok? Per cortesia. La Zanzara. Davide? Sei comunista, sei ebreo e sei pure musulmano. Io sono nazista e basta. Sweet talking time, still looking fine. Stop the Tenete sembra Hitler uscito dal McDonald's. Allora ragazzi, avviso agli animalisti: il comune di New York stanzia 32 milioni di dollari, 32 milioni di dollari per fare la guerra ai topi. Capito? Beh, per fare la guerra ai topi. Il sindaco De Blasio vuole far installare bidoni a energia solare. Bellissimo. Per compattare la spazzatura e uccidere i roditori con il ghiaccio secco. Non so come cazzo funziona sto marchingegno, comunque la cosa è abbastanza chiara. Il sindaco De Blasio vuole far installare bidoni a energia solare non per, come dire, accompagnare i topi col piffero fuori da New York, come vorrebbe qualcuno del mondo animalista, non per salvarli, magari metterli sotto non so che cosa, per ucciderli con il ghiaccio secco. Chiaro? Obiettivo: ridurre del 70% il numero di ratti e topi in città. Cioè non si pongono il problema di salvare la vita dei topi, A proposito di animalisti, sono venuto a sapere nella giornata di ieri che il signor Valerio Vassallo, già fiero avversario di questa trasmissione e fiero avversario del sottoscritto in diversi... Valerio Vassallo, un animalista di qualche gruppo estremista, eccetera, vegano, eccetera. No, non è in carcere. È in carcere. È stato però condannato per stalking nei confronti dell'ex fidanzata a un anno e rotti. Avevano chiesto per lui 2 anni e 4 mesi, 2 anni e 6 mesi, non ricordo. Io non voglio infierire, perché per carità sono cazzi privati di Vassallo, uno è stato condannato per stalking, però c'è una piccola osservazione che voglio fare, l'osservazione è questa: ma questi animalisti, questi vegani, non dovrebbero essere in teoria, essendo, come dire, no, abbracciando l'idea dell'amore per tutti gli esseri umani, dovrebbero essere pacifisti, dovrebbero essere quelli che non toccano nessuno, non dovrebbero essere guerrafondai, essendo il genere umano, anzi essendo le specie tutte uguali, senza distinzione, dovrebbero essere i campioni del pacifismo, i campioni della non violenza. E invece no, oltre a rompere i coglioni anche a Italy l'altro giorno dal signor Farinetti, dicendo che è un obitorio, che è diventato un obitorio perché fanno la carne, un obitorio, rompono i coglioni pure alle ex fidanzate. Ora, ripeto, magari sarà assolto, non lo so, è evidente che qualcosa è successo. Mi fa specie questa roba qui, cioè che uno che dovrebbe in teoria, da vegano, da eccetera eccetera, abbracciare la non violenza, diventa invece un violento nei confronti dell'ex fidanzata. E poi in teoria, cos'è che dicono? Che quando uno diventa vegano diventa anche meno violento. Chi è vegano, se il mondo fosse vegano non ci sarebbero guerre. Però c'è la guerra alla fidanzata, però. Questi sono veramente incredibili. Comunque, non voglio infierire, per carità, non voglio infierire, perché comunque sono cazzi suoi, si è picchiato la fidanzata. Allora, dove andiamo? Andiamo a Marco da Milano, vai Marco. Marco, vai, dimmi. Cruciani, una domanda. Vedo che il tema degli immigrati è sempre ricorrente, d'attualità. Allora? Sì. Volevo chiederti una cosa, ma perché il tono che, con cui imposti la puntata ogni volta deve essere quello da osteria, quello da gruppo regionale su Facebook? No, io volevo chiedere. È arrivato Marco da Milano. No, aspetta, fammi finire che... Se vogliamo affrontare il problema, che cos'hai contro le osterie? Non ho capito. No, ma io, ma cos'hai contro le osterie? Non ho capito. Osterie, e allora che cazzo vuoi? Voglio analizzare un problema. Perché? Ma devo qui non si analizzano i problemi. No, cioè, ma quello, no, se vuoi analizzare un problema, ma... leggi un trattato, leggi, vai sul web, leggi di un libro. Qual è lo scopo allora della puntata? Accumulare odio, non avere neanche un minimo di non c'è di scopo, non ci sono scopi, non c'è scopo. Vai a fare, vai a sentire una lezione, leggi tu il libro del professor Ricolfi, leggi tu il libro di Sartori, leggi tu il libro dall'altra parte di qualcuno. Non rompere i coglioni a noi che vogliamo fare una trasmissione radiofonica. Chiamasi radio, non è un convegno. Hai capito o no? Convegno, è chiaro o no? Buono, è chiaro o no? Bene, hai no, qualcosa da dire o no? Poi che cosa bene, hai da dire? Io volevo solo rispondere. Che cosa hai da dire? Feltri. Spiegami. Rispondi a Feltri, avanti. Va bene, sul fatto che se prima erano, se adesso sono gli immigrati, c'è sempre stata la zona disastrata in periferia. C'era l'immigrato, prima c'era il perdigiorno italiano, c'era il perdigiorno albanese. Non è tanto un problema immigrato o non immigrato. Il problema sono certe periferie, certe zone della città che vengono lasciate a marcire e vengono ignorate dalle amministrazioni, quindi non c'è un cazzo di sfogo. L'immigrato è lì come l'italiano, bravissimo, come il drogato italiano. È esattamente così. Il problema è quello, non è il problema dell'immigrato. Così. Bene, hai detto la tua, ti ringrazio. Francesco, dalla provincia di Taranto, così. Ci voleva la premessa così. Prima, l'osteria, la cosa e quella, la trasmissione. Così. Un'analisi lucida, ma perfetta, di la tua, non rompere il cazzo, no, Francesco, dai. Tutta la dobbiamo, allora, perché imposta la trasmissione così e parla e non rompere i coglioni, Francesco, dai. Rimanendo sul tema migranti. Allora, sì, io senza esprimere opinioni e se no che cosa devi esprimere un'opinione, se no che hai chiamato a fare senza esprimere opinioni, mi fa impazzire questo. ti racconto la realtà. Ti racconto la realtà. Avanti, amici, sentiamo la realtà. Ho diversi amici di colore del Senegal che allora? Vivono qui, sono arrivati con la barca, eccetera. E ho provato a portarli in giro in piazzetta con le amici, a farli parlare. Perché hai amici del Senegal che sono venuti con la barchetta, come dici? No, no, mi fa piacere. Mi fa piacere. Cioè, tu passeggi per strada e conosci gente del Senegal che sono venuti con la barchetta. Ma è curiosa come cosa. L'ho conosciuto a calcio principalmente. A calcio. E allora io ho provato. Bello il calcio che riesce a unire. Bello. Vabbè, l'ho conosciuto lì e niente, ho provato a portarlo con gli amici, eccetera. Pure per vedere come reagiva, tipo a portarlo nella macelleria, la carne di cavallo, per vedere che cazzo di reazione aveva, no? Allora? Loro comunque hanno dei pregiudizi molto forti nei nostri confronti, che a prescindere se uno li vuole aiutare o meno. Quali sarebbero? Loro tanti, allora, l'altro giorno dopo un discorso che si faceva, sono arrivati a dire che loro, l'uomo originale, secondo loro, è un uomo di colore. È l'uomo nero. L'uomo perché nero. La gente di colore siamo noi, perché se tipo io ti tiro uno schiaffo, la nostra pelle cambia colore al sole, la nostra pelle cambia colore. Ma di che stai parlando? Invece loro sono, secondo loro pensiero... Ah, l'uomo vero, l'uomo originale. Sì, vabbè, questo è un coglione, scusami. Attenzione. Io penso hai che conosciuto un senegalese coglione, cioè ti posso dire hai conosciuto un senegalese che sarà venuto con la barchetta eccetera eccetera, ma è semplicemente un coglione, come ci sono coglioni tra gli italiani ci sono assolutamente. Fermo lì, fermo. Dai Zucchero, non si molla un cazzo, siamo tutti con te. Zucchero, la la la la. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Nilox.com, dove la tecnologia diventa sport. La Zanzara. Cruciani, la moglie di Macron è un cesso. Fare sciacquo di la bocca quando parli del Movimento 5 Stelle, di Beppe Grillo oppure di Battista. Non sei nemmeno un pelo delle palle di Battista, capito? Di Battista non lecca il culo come te. Lecca culo. Parenzo del cazzo, guarda che a Padova, in Prato della Valle, i tuoi amici giostrai mi hanno rubato il portafoglio, sti stronzi. Che fa questo cretino a dire che i comunisti in Italia non hanno fatto morti? Ma imbecille, ma sciacquati la bocca, ma vatti a rilengere il sangue dei vinti. Ma imbecille che non sei altro, tu Rothschild e tutti quei coglioni che non siete altro, coglione! Ragazzi, con grande soddisfazione bisogna solo ricordare a tutti questi insaccati che telefonano, sono degli insaccati, cioè dei salami, che la nostra Costituzione, vorrei ripeterlo ancora perché forse non è entrato nel cervello, che palle questa Costituzione. È firmata dai comunisti. Ma chi se ne frega? La firma della Costituzione. Il comunismo ha fatto un sacco di morti, ma non ce ne frega niente a noi di questa roba qua. Ce ne possiamo fottere di questa roba qua? Ce ne fottiamo. Ma è per dare, come dire, due nozioni. Ma quello non vuol dire nulla. Gli stessi che hanno firmato, come dici tu, la Costituzione erano gli stessi che collaboravano con i sovietici, che ammazzavano un sacco di gente. E dunque è uguale. Dai, su ragazzi. Comunque, apprendo con soddisfazione che in Emilia, esattamente a Bologna, le mignotte si organizzano, per fortuna, per evitare magari i sindaci bigotti che le vogliono multare. Allora, pare che in alcune zone di Bologna abbiano cominciato a circolare delle case mobili del sesso, cioè a dire dei camper in stile Lucia da Pordenone, sostanzialmente fatto scuola, cioè, vecchia, assolutamente, cioè scopiamo qui dentro oppure niente. E lì non puoi fare nulla, perché tu stai col camper, io scopo dentro il camper, dunque non c'è discussione. È una soluzione, importantissima soluzione. Certo, non tutte possono avere il camper, però è un modo per fottere questi sindaci bigotti che rompono le palle e che continuano a multare i clienti. Adesso voglio farti ascoltare le ultime performance del signor Locascio, del mitologico Locascio, caro Parenzo. Prima se la prende con i cornetti, sai quelli che fa la pubblicità Banderas? Sì, non so di che marca sono. No, non lo diciamo, ma certo sì. No, ma adesso ci attaccheranno naturalmente, perché... Però Locascio contro la quantità di cioccolata dentro queste brioche, senti. Ciao, allora c'è qua la pubblicità di Banderas, no? Del Mulino Bianco, che le brioche, quelle, le nuove brioche, no? Del Mulino Bianco, dice: ci devi mettere più cioccolata, ci voglio tanta cioccolata. Allora, io l'ho aperta, già l'ho aperta 3-4, no? E ce ne apro una in diretta con voi, perché sennò pare che io sono stupido, no? Allora, tu dimmi qua la cioccolata, do cazzo sta? Ecco, eccola qua. Eccola qua! Banderas, che ti piace un colpo questa? Pare una frenata nelle mutande di un cammello svizzero! Testa del cazzo! Allora ne apro un'altra, no! Questo pare una, uno che ha scorreggiato nelle mutande, la merda era pesante, no! Eccolo qua! E ci ha fatto una frenata! No! Che cazzo è questa? Scemo! Questa è la cioccolata, se ce la vuoi mettere, ce la devi mettere così! La sporta qua, lo coltello fatto a paletta, oh, questa è cioccolata della brioche, scemo, vatta a falante il culo Banderas, che zorro, le spalle le cimitarie. State calmi, bro, state sempre calmi, ciao. Il bello è che finisce sempre così, state sempre calmi. Mi ricordi chi è questo signore? Che non Locascio, signor Antonio Locascio. Io conosco l'attore Locascio, Luigi Locascio. Sì, ma l'hai già detta questa, dai. E no, ho capito, ma io continuo a propormi della gente. Su, sai che hanno denunciato Donato, un esponente della Chiesa, pare che abbia denunciato per aver attaccato Bergoglio? No, dai, questo. Mi hai svoltato la serata. No, ero depresso stasera, no, l'hai svoltata. Ma hai svoltato la serata? Siete morti! Stai zitto che non sei nessuno! Hanno denunciato Donato, pare un esponente della Chiesa Cattolica, così hanno detto in caserma, per avere attaccato Bergoglio. Certo, non c'è andato leggero il signor Bergoglio. Intanto, Parenzo, che mi sembri abbastanza addormentato in questa fase della trasmissione, ti faccio sentire come si è scatenato. Ma che è tarda, non rompere il cazzo. Come si è scatenato contro di me stavolta per un incredibile. Per, sai, il destino fa molti giri, no? Cioè, per un'incredibile storia, il signor Mauro da Mantova. Cioè, Mauro, pensa che io l'abbia boicottato in questa trasmissione. Caro Mauro, nessuno, ti sei boicottato da solo perché sei completamente fuori di testa. Beh, signore patetico. Sentiamo Mauro come mi attacca, senti. Vengo a scoprire da un caro fans, di cui non faccio il nome, che chi passa le notizie, le news a libero.it sul web è un certo Giuseppe Cruciani. E allora io mi chiedevo, ma perché il 12 dicembre 2016 viene pubblicato a libero.it che la notizia degli insolventi di MPS, De Benedetti e Marcegaglia la si è presa grazie a Donato da Varese? Ma come cazzo faceva Donato da Varese a sapere che De Benedetti e Marcegaglia erano insolventi, che non abita nemmeno a Mantova? Manto è proprio qui dove c'è il centro di interesse di quel delinquente ebreo di merda di Benedetti. Signor Mauro, lui dovrebbe spiegare a questo mezzo pazzo paranoico, mezzo no, totalmente poi pazzo. Poi mi date il figlio di puttana, senti, infame, lecca culo, senti, no, senti, ma stavolta a me non ce l'ha con perché vedi, ce l'ha, adesso si è cambiato il nemico, adesso verrà fuori che Cruciani anche ebreo, verrà fuori, vedrai quello che comincerà a dire, sicuramente. E allora, caro Cruciani, brutto figlio di puttana, io ti mando a fare in culo e non... Guarda, ti giuro, se mi capiti di fianco ti sputo in faccia, ti giuro, ti sputo in faccia, pezzo di merda, sei infame, quasi peggio di Parenzo, sei infame, perché almeno Parenzo è un vigliacco, lo si sa, lo sanno tutti che è un vigliacco, un vile. Tu invece vuoi fare lo sbruffone, falso, perché sei anche falso, menti, perché dici di non avere la Ferrari, no, ce l'hai la Ferrari, e ti vantavi a Roma di aver speso 600.000 euro per averla fatto modificare come vuoi tu, figlio di puttana, sei proprio un pezzo di merda, mi fai proprio vomitare, mi fai schifo, e ti giuro, devi sputare sangue per sentire con i miei audio in live, pezzo di merda, vai a fare in culo, tu sei proprio un infame, è un figlio di puttana, ma della peggior specie, vergognati, figlio di puttana. Signor Mauro da Mantova. Beh, però finalmente ha tirato fuori questa storia della Ferrari che effettivamente avevano la finalmente Ferrari. Dai, su, ma che Ferrari? Che l'hai fatta modificare, ma quale Ferrari? L'ha detto lui. Ma non diciamo stronzate. È lo stesso metodo di è come questa fantomatica Anna di Napoli, uguale, uguale. Finalmente si sa che tu hai la Ferrari che l'hai fatta pure modificare. Allora, dove andiamo? Alessandro da Firenze, vai. Oh, ciao Cruciani. Ciao Alessandro, dimmi. Sono Berna 69, un tassista di Firenze. Grande, grande. Berna 69, vai. Ho preso ora un cliente, si è scandalizzato perché ti ha sentito dire un paio di parolacce. Gli ho detto vai a vaccare, scendi dai miei tassi. E meno male, ma... Vai, mi rompo i coglioni. Bigotto, Dio Bono. Ma fermo, stai tranquillo, Dio Bono, stai tranquillo. Vabbè, è qui. No, Dio male, Bono. Male, ecco. Meno male poi, ma dopo questo signore mi ha chiamato la Samantha e la Jessica, che dice che conoscano, sono due trans che ho portato a Barberino. Adesso. Che mi hanno detto, dai, telefonagli, telefonagli. Sì, ho detto, che cazzo piglio la linea? Invece l'ho presa. Però scusami, amico mio, io Samantha e Jessica non le conosco. Cioè, Samantha e Jessica. Mi hanno detto che conoscano. No, io non le conosco, Samantha e Jessica. E qui salta fuori un altro pezzo di storia, allora. Ma non c'è nessun pezzo di storia, amico mio. La Ferrari, 600.000 euro spesi. Non conosco nessuna Samantha e nessuna Jessica. Jessica e Samantha. Amico mio, viene fuori un quadro inquietante. No, sai. Vabbè, scusa, adesso tu, io ti ho accolto bene. Ma non c'è, io ti ho accolto bene perché sei un tassista, ma mi stai diffamando, scusami Alessandro. No, perché dici io così? Sono amico di tutti i tassisti italiani. Sono grande tifoso dei tassisti. Dicendo. L'altro giorno sono andato a Roma e mi hanno accolto con un grande trionfo a Roma. Cioè, sì, mi hanno portato su un trono d'oro. Però, amico mio, adesso non mi puoi sputtanare così dicendo che hai imbarcato due trans. Io ambasciatore non porta pena. Allora sei in veramente questo caso stronzo. Pene. No, ambasciatore in questo caso porta pene, anzi due pene. Non porta pena, io peni, riferisco quello che mi hanno detto. Mi sa che sei andato tu a trans, altro che. No, io a me piacciono trans. Ti piacciono? Il mio taxi lavora tutta la notte con trans. Sono proprio il tassista specifico. Sì, per ma loro, ho capito, ma tu specializzato, sei andato dice a trans questo, tu qualche volta? Sì, sì, certo, sì. Mi piace. A me vedere il pisello nel corpo di una donna mi eccita. Pensa a te che elegante, perfetto. Pensa parento, Dio stai tranquillo. Pensa stai tranquillo pensa con questo Dio mondo, Bono, non esagerare. Comunque, vabbè. Non esagerare. Pensa che poi... a te che mondo. Pensa però te. Voglio dire una cosa. Che mondo, no, Alessandro, scusa, come fa a piacere? No, poro te. Parenzo, tu sei anch'io come Dante di Firenze. Mamma mia, Parenzo, sì, sì, sì. Quando ho visto la televisione ho detto porca miseria, che delusione. Tu sei nemmeno fotogenico, Madonna. Fotogenico. Comunque lasciamo stare i santi per cortesia. Sì, anche le Madonne, anche abbiamo già tanti di quei problemi qua in questo posto qui. No, sì, però voglio dire una cosa, Alessandro, cosa ti piace chiudi, del corpo, quel paese, del tutto, corpo di una donna, del corpo di una donna col pisello? Cosa ti piace del corpo di il corpo di un uomo in realtà trasformato quasi in donna col pisello? Cosa ti piace? Sì, mi piace vedere il fallo proprio. Vabbè, mi piace questo. Cioè, sono stufo della passerina, capito? Vabbè, ormai sei stufato, siamo d'accordo. Abbiamo fatto adesso, ci apriremo la Repubblica. Scusa, domani. Qual è la Repubblica, qual è la tua compagnia di taxi? Come? Qual è la tua compagnia di taxi? 4390 Cotafi, Cooperativa Tassisti Fiorentini, quelli più all'avanguardia. Quegli altri sono comunisti, so cosa, i comunistacci, e se l'era per loro, c'era tutti autisti dipendenti. Meno male c'era la Cotafi, che abbiamo salvaguardato le licenze. Cotafi, Berna, com'è Berna? 69. Berna, bene, 69, almeno non lo prendo quando vengo a Firenze. Non per caso, non per caso. Non per caso. Ciao Alessandro, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Paese. Dopo aver coricato il figlio, il padre nella stanza sua si veste, guardando malinconico il giaciglio di sua moglie grassa in sottoveste, e mentre gira piano la maniglia, per evadere dal suo tormento. Esce impertinente il ragazzino. Sì. Gli chiede: padre, dove stai andando? Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, non c'è niente di male, sono eterosessuale. Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, papà non è cattivo, a volte è un po' passivo, ma solo con i trans, solamente con i trans, ribadisco, con i trans. Allora, David, ci saluto, ragazzi. Siamo quasi in conclusione. Me ne sto andando, ragazzi. Nicola dalla provincia di Catanzaro. Vai, Nicola, dalla provincia di Catanzaro. Vado a fare la pipì. Ci sentiamo domani. Come, ragazzi, la pipì? Ma com'è? Vado a fare la pipì. Voglio annunciare però una cosa. Voglio annunciare che ci sentiamo domani. Giovedì 27 ci sarà. Giovedì 27 ci sarà un grande live qui con il signor Ruggero dei Timidi. Ah, molto bene. Giovedì 27, Ruggero dei Timidi. Beh, vendiamo i biglietti, scusa, facciamo due. Dovremmo vendere, sì. Nicola, provincia di Catanzaro. Guarda che ti vuole rompere la schiena. No, me ne frega. Fa la pipì, mi Nicola, scappa, fate bene. Nicola, dimmi. Se se ne va non vale. Dimmi Nicola, dillo, poi glielo dico domani, dimmelo. Dimmi. Stavo dicendo che con il tassista Oh! Di Firenze avete raggiunto il top, dico, no? Vabbè, allora che vuoi, dimmi. Allora. Oh, parla. Ho sentito Parenzo che diceva che devono arrivare degli immigrati, no, dei clandestini in Calabria. Con tre parole, no? Per questo dico, è un fenomeno. Con tre parole ha detto che cos'è la Calabria, cioè? I bronzi, niente, l'andrangheta. L'andrangheta fa schifo, è una merda. Allora? Io sono calabrese, te lo dico. Io volevo dire questo, che è un fenomeno. E i calabresi, cioè, da calabrese stai dando ragione a Parenzo o no? Sì, sto dando ragione a Parenzo perché è la... Che c'hai con sto telefono? Niente. Ma che stai facendo? Ti stai incartando da solo? Dove lo stai rigirando? Che stai facendo? No, sono proprio immobile. No, ma lo stai rigirando. Il telefono che non va bene, magari, non lo so. Magari, non lo so. Quindi, dunque? E i calabresi che si meritano sta cosa qua. Vabbè, mi hai rotto già, non hai niente. Il problema vero è che tu non hai niente da dire. Una persona sola, sì. Sei una persona molto sola. Sì, vabbè. Sei una persona sola. No, non ti preoccupare. Ma è importante questo. Mi arrangio. No, aspetta. No, sei solo o no? Secondo te, a quest'ora qua, io sono l'ultimo che interviene, sono le 9, ho già mangiato. Hai una donna. La mia compagna mi ha cucinato, sì. Passamelo un po', che ti ha cucinato? No, sta lavando i piatti adesso, scusa. Ma vai ad aiutarla, buffone, vai ad aiutarla. Ma dai, ma smettere. Vai ad aiutarla, buffone. Vai ad aiutarla. Ma sì, ma finisco. Vai ad aiutarla, dalle una mano. Sì, ma assolutamente. Balla a dare una mano, schiavista. Sì, ma figurati. Dai. La mia compagna sta lavando. Balla a dare una mano subito. Balla a dare una mano. Mi devi sentire. Spostati col telefono e vai a dare una mano alla tua compagna. Avvicinati alla tua compagna, se non mi fai incazzare. Avvicinati alla tua compagna. Non mi fare incazzare, avvicinati alla tua compagna. Sostituiscila lì dal lavandino. Mettiti accanto, voglio sentire questo avvicendamento. L'avvicendamento e poi chiudo la trasmissione. Prima mi devi far sentire che stai sostituendo la tua compagna a lavare i piatti. Va bene. No, non mettiti là vicino. Mettiti là vicino. Sì, sarà qua, va. Passamelo un attimo, passamelo un secondo. Aspetti, poi ci sentire i piatti. No, ma passamelo un secondo, passamela. Saluto, adesso. Sì, togliti da là, fai lavare i piatti al tuo compagno. Non li vuole lavare, cosa devo fare? Perché è un pezzo di merda, perché è uno schiavista, perché... Dì la verità, dimmi la verità, sì, perché? È vero. Ciao. No, però cucina, dai. Cucina pure, cucina, sì. Chissà che cucina, come cucina? Ma tu non sei calabrese tu però? No, io sono veneta. Ma che cazzo ci fai in Calabria? Allora, col calabrese, in Calabria. È tutto finito, ma scopa bene almeno? Un po'. Vabbè, dai, basta. Come scopa? Hai visto? Come scopa? Non l'avevi detto, ma sono bravo a cucinare, stronza, hai visto? Ciao, che c'era qualcosa. Ciao, coglione, ciao. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E a me non me ne frega niente.